Biddiscolo. Avete sentito quel che ha detto il professore? È un professore dell'università. Kate Fichetta. Sì, l'ho sentito. Biddiscolo si esprime con estrema raffinatezza di fraseologia. Kate Fichetta. Sì, davvero. E nel contempo con appropriatissima incisività. Il soldato Carr si libera con uno strattone e si fa avanti. Che cosa hai da dire sul mio re? Edoardo VII appare in un androne. Indossa un jersey bianco su cui è cucita un'immagine del Sacro Cuore, con gli emblemi della giarrettiera e del cardo, del vello d'oro, dell'elefante di Danimarca, del reggimento di cavalleria Skinner e Probyn, di avvocato del Lincoln's Inn e dell'antica ed onorevole compagnia d'artiglieria del Massachusetts. Succhia una giuggiola rossa. Ha indosso il manto del grande eletto perfetto e sublime Gran Maestro con cazzuola e grembiule, contrassegnato Made in Germany. Nella mano sinistra ha una secchia da imbianchino su cui si legge Défense du Rhin e accolto da ruggiti di entusiasmo. Edoardo VII. Lentamente, solennemente, ma indistintamente. Pace, pace assoluta. Per l'identificazione, la secchia che ho in mano. Alla salute, ragazzi! Si volta verso i sudditi. Noi siamo qui convenuti per assistere a un leale cavalleresco combattimento e auguriamo di cuore ad ambo le parti la miglior fortuna possibile. Mac Macarabac! Stringe la mano al soldato Carr, al soldato Compton, a Steven, a Bloom e a Lynch. Applauso generale. Edoardo VII alza la secchia in segno di grazioso riconoscimento. Il soldato Carr a Steven. Ripetilo un po'. Steven, nervoso, amichevole, cerca di contenersi. Comprendo il suo punto di vista, per quanto io non riconosca nessun re per il momento. Questa è l'epoca degli specifici. Una discussione qua giù la si fa male. Ma questo è il punto. Lei muore per la patria, immagino. Posa una mano sulla manica del soldato Carr. Non che glielo auguri, ma io dico che la patria muoia per me. Fino a questo momento lo ha fatto. Io non voglio che muoia. All'inferno la morte. Viva la vita! Edoardo VII. Levita sopra mucchi di gente massacrata, in veste e con l'aureola di Gesù giullare. Una giuggiola bianca sul volto fosforescente. Sono nuovi i miei sistemi di cui ridon gli allocchi per dar la vista ai ciechi, do polvere negli occhi. Steven, re e unicorni. Arretra di un passo. Venga in qualche posto e io. Cosa diceva quella ragazza? Il soldato Compton. Ehi, Harry, dagli un calcio nelle nacchere e un altro nel culetto. Bloom. Ai soldati, a bassa voce. Non sa quel che si dice. Ha alzato il gomito un po' più del necessario. Assenzio, il mostro dagli occhi verdi. Lo conosco. È un signore, un poeta. Tutto a posto. Steven annuisce, sorridendo e ridendo. Gentiluomo, patriota, studioso e giudice di impostori. Il soldato Carr. Non me ne importa un cavolo chi è e chi non è. Il soldato Compton. Non ce ne importa un cavolo chi è e chi non è. Steven. Sembra che io li irriti. Cencio verde per il toro. Kevin Egan di Parigi in camicia nera spagnola con le nappe e cappello da giovane irlandese ribelle facendo a Steven. Kevin Egan. Hola, bonjour, la vieille ogresse con i donjon. Patrice Egan fa capolino da dietro. Muso di coniglio che mordicchia una foglia di mela cotogna. Patrice. Socialist! Don Emil Patrizio Franz Rupert Pope Hennessy. In usbergo medievale, 2 anitre selvatiche volanti sull'elmo, con nobile indignazione punta una mano ferrata verso i soldati. Werf vostri occhi al Futboden, prutti cramporcos di anglicisti todos coperti di sugo. Bloom a Steven. Venga a casa, si metterà nei guai. Steven, vacillando. Non li evito. Quello là mi stimola l'intelligenza. Biddiscolo. Si nota immediatamente che che discende da nobili lombi, l'avirago, il verde sopra il rosso, dice Wolf Tone, la ruffiana. Il rosso va bene quanto il verde e anche meglio. Viva l'esercito! Viva Re Edoardo! Un teppista ride. Certo! Mani in alto! Arrendersi a Devet. Il cittadino, con una gran sciarpa color smeraldo e una mazza, urla. Possa Dio che sta lassù una colomba a mandar giù, con denti bene aguzzi, forti e fieri. Per segare ben la strozza all'inglese razza sozza che impiccò d'Irlanda i condottieri. Il giovane ribelle irlandese, il nodo scorsoio attorno al collo, cerca di ricacciar con ambo le mani gli intestini fuoruscenti. Io non odio nessuno quanto a me, ma amo il mio paese più del re. Rumble, barbier demonio. Accompagnato da due assistenti con maschere nere, avanza con una valigetta che apre. Signori e signore, la mannaia acquistata da Mrs. Percy per uccidere Mogg, il coltello con cui Voisin ha fatto a pezzi la moglie di un compatriota e ha poi nascosto i resti dentro un lenzuolo in cantina, la gola dell'infelice essendo stata tagliata con uno squarcio da orecchio a orecchio. La fiala contenente l'arsenico recuperato dal corpo di Miss Barron, la qualcosa mandò Seddon alla forca. Dà uno strattone alla corda. Gli assistenti saltano alle gambe della vittima e le tirano all'ingiù grugnendo. La lingua del ribelle protrude violentemente. Il giovane ribelle irlandese. Her anima, hi amma, hon regai. Rende l'anima a Dio. Una violenta erezione dell'impiccato manda uno spruzzo di sperma attraverso il vestito mortuario fin sulle pietre del selciato. Mrs. Bellingham, Mrs. Yelverton Barry e l'onorevole Mrs. Mervyn Talboys si precipitano avanti per inzupparvi dentro i fazzoletti. Rumbold, ci son vicino anch'io. Scioglie il nodo. Corda che ha impiccato il terribile ribelle. 10 scellini per volta. Come per sua altezza reale, caccia la testa nella pancia squarciata dell'impiccato e la tira fuori di nuovo, grondante di interiori aggrovigliate e fumanti. Il mio penoso dovere è compiuto. Dio salvi il re! Edoardo VII danza lentamente, solennemente, sbattendo la secchia e canta contento e beato. Il dì dell'incoronazione, che bella festa, che bel festino con whisky, birra e vino. Il soldato Carr. Dunque, cosa dici del mio re? Steven alza le mani. Oh, ma lei è monotono, sa. Niente, vuole i miei soldi e la mia vita perché è schiavo del bisogno per un certo suo porco impero. Soldi non ne ho. Si fruga vagamente in tasca. Dati a qualcuno. Il soldato Carr. Chi vuole i tuoi fottuti soldi? Steven cerca di allontanarsi. Qualcuno vuole aver la cortesia di dirmi dov'è assolutamente improbabile incontrare questi mali necessari? Sa se vuo sia a Parigi. Non che io, ma per San Patrizio. Le teste delle donne si fondono. Appare la vecchia nonna sdentata con un cappello a pan di zucchero seduta su un fungo velenoso. Col fiore mortifero della peste della patata sul petto. Steven. Ah, ti conosco, nonnina. Amleto, vendetta, la vecchia scrofa che mangia i piccini. La vecchia nonna sdentata, dondolandosi in qua e in là. Diletta dell'Irlanda, figlia del re di Spagna, l'Anna. Gli stranieri in casa, ma loro ne incolga. Si lamenta con dolore fatato. Ocione, ocione, seta delle mucche! Geme. Hai incontrato la povera vecchia Irlanda e come la sopporti? Steven, come la sopporto? Col trucco del cappello. Dov'è la terza persona della Santissima Trinità? Sogart Aaron? Il reverendo Carogna Cornacchi? Sissi Caffri, stridula. Impedite che si picchino! Un teppista. I nostri hanno battuto in ritirata! Il soldato Carr. tirandosi sul cinturone. Tirerò il collo al primo bischero che dice qualcosa contro quel fottuto del mio re. Bloom, atterrito. Non ha detto nulla, neanche una parola, un semplice malinteso. Il soldato Compton. Dai, Harry, uno nell'occhio e un filo boero. Steven. Oh sì? Quando? Bloom, alle giubbe rosse. Abbiamo combattuto per voi nel Sudafrica, truppe d'urto irlandesi. Non è storia, forse? Royal Dublin Fusiliers, onorati dal nostro sovrano. Lo stradino passa traballando. Oh sì, Dio mio, sì. Oh, fa la guerra per terra. Oh, boh. Alabardieri col casco e la corazza avanzano presentando una parete di lance dalle punte imbudellate. Il maggiore Tweedy, coi baffi di Turco il Terribile, berretto di pelo d'orso col pennacchino e grande uniforme, spalline, galloni dorati e taschetta, il petto luccicante di medaglie, pronto a scattare. Fa il segno del guerriero pellegrino dei Cavalieri Templari. Il maggiore Tweedy ruglia stizzoso. Rorke's Drift! Avanti, dragoni! Addosso! Maharshalal Ashbaz! Il cittadino. Eringo Brach! Il maggiore Tweedy e il cittadino si mostrano reciprocamente medaglie, decorazioni, trofei di guerra, ferite. Ambedue fanno il saluto militare con feroce ostilità. Il soldato Carr. Lo faccio fuori! Il soldato Compton. Facendo alla folla di stare indietro. Gioco leale qui, fanne una macelleria di quel fottuto. Un complesso di fanfare esegue Garry Owen e Dio salvi il re. Sissi Caffri, se le danno per me. Kate Fichetta, i prodi e i belli. Biddy Scolo, parmi che il cavalier dell'armi scure sarà il migliore nell'arengo. Kate Fichetta, arrossendo fino alla punta dei capelli. Da dovero, Madonna, a me il giustacuore rosso ed il gaio San Giorgio. Steven, grido di prostituta di strada in strada intesserà il sudario della vecchia Irlanda. Il soldato Carr, allentandosi il cinturone, urla. Tirerò il collo al primo bastardo fottuto che dice una parola contro il mio fottuto re della malora. Bloom scuote per le spalle Sissi Caffri. Dica qualcosa, lei è diventata muta. Lei è l'anello di congiunzione tra nazioni e generazioni. Parla, femmina, sacra datrice di vita. Sissi Caffri, spaventata, afferra la manica del soldato Carr. Non sto con te, forse. Non sono la tua ragazza. Sissi, è la tua ragazza. Urla. Polizia! Steven, estatico, a Sissi Caffri. Bianche barre, rossa modana e il brulaccio delicato. Voci. Polizia! Voci in distanza. Dublino brucia! Dublino brucia! Al fuoco! Al fuoco! Sprizzano fiamme solforose. Dense nuvole trascorrono, tuonano pesanti cannoni Gatling, pandemonio, truppe si schierano, galoppo di zoccoli, artiglierie, ordini rauchi, campane rintoccano, scommettitori urlano, ubriachi berciano, puttane strillano, sirene fischiano, clamori guerreschi, grida di morenti. Picche sbattono contro corazze, predoni derubano caduti, uccelli da preda venendo dal mare, alzandosi dalle paludi, piombando giù dai nidi, volteggiano con urla stridule, sule, smerghi, avvoltoi, astori, galli cedroni, smerigli, peregrini, tetraoni neri, aquile marine, gabbiani, albatri, oche bernacle. Il sole di mezzanotte si oscura, la terra trema. I morti di Dublino dai cimiteri di Prospect e di Mount Jerome in bianchi soprabiti di pelle di pecora e neri ferraioli di pelli di becco si levano e appaiono a molti. Un abisso si apre con uno sbadiglio silenzioso. Tom Rochford, il vincitore, in magliette e mutandine da atleta, arriva in testa all'handicap nazionale a ostacoli e salta nel vuoto. È seguito da una filza di corridori e saltatori. In atteggiamenti frenetici balzano dall'orlo dell'abisso. I loro corpi si tuffano. Ragazze dell'officina con bei vestitini tirano barabombe incandescenti dello Yorkshire. Signore della buona società, si alzano le gonne fin sopra la testa per proteggersi. Streghe ridenti in corti gonnellini rossi cavalcano per l'aria su manichi di scopa. Quaker Lister, pien di mister, fade clister. Piovono denti di drago. Eroi armati spuntano dai solchi. Si scambiano in segno di amicizia il segnale convenuto dei cavalieri della Croce Scarlatta e combattono duelli con sciabole da cavalleria. Wolfe Tone contro Harry Grattan, Smith O'Brien contro Daniel O'Connell, Michael DeWitt contro Isaac Butt, Justin McCarthy contro Parnell, Arthur Griffith contro John Redmond, John O'Leary contro Lear O'Johnny, Lord Edward Fitzgerald contro Lord Gerald Fitzedward, gli O'Donoghue delle valli contro la valle degli O'Donoghue. Su un rialzo, centro della terra, si erge l'altare da campo di Santa Barbara. Nere candele si levano dal corno del Vangelo e da quello dell'Epistola. Dagli alti barbacani della torre, due raggi luminosi cadono sulla pietra dell'altare coperta di una coltre di fumo. Sulla pietra dell'altare, Mrs. Mina Purfoy, dea della non ragione, giace nuda, in ceppi, un calice in bilico sul ventre gonfio. Padre Malachy O'Flynn, con una sottana di trina e pianeta messa all'incontrario, i due piedi sinistri col calcagno retroverso, celebra la messa al campo. Il reverendo Mr. Hugh C. Heinz Love, MA, con una tonaca semplice e berretto accademico, testa e colletto retroversi, tiene sopra il capo dell'officiante un ombrello aperto.